Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, una poesia di Luca Giambonino. Oggi ho fatto qualcosa di diverso. Oggi ho fatto qualcosa di diverso. Invece del solito caffè al bar, da sporto l'ho preso e sedutomi solo su una panchina. L'ho sorseggiato in mezzo alla natura. E quante, tante volte ci dimentichiamo di quanto è bella. Ho seguito con gli occhi il volar d'una farfalla scura e il profilo dell'albero su su fino alle foglie. Dell'aiuolo ho apprezzato, fumando, il verde colore dell'erba fresca cresciuta appena. E mi sono sentito meglio. Per un attimo ho lasciato i problemi nel cassetto e mi sono imperniato nel buco scavato dal picchio rosso. Primavera 2017.